ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Quella scintillante visione fu dissipata da Arthur, che per tutta la sera aveva tentato di far venire fuori il selvaggio. E Martin Eden si ricordò però della sua decisione e per la prima volta fu se stesso, coscientemente e deliberatamente all'inizio, ma presto perso nella gioia di creare, di far apparire la vita che conosceva davanti agli occhi dei suoi ascoltatori. Aveva fatto parte della ciurma di contrabbandieri dell'Alcyon quando la goletta era stata catturata da una lancia della dogana. Aveva guardato con occhi spalancati e poteva raccontare ciò che aveva visto. Portò davanti ai suoi ascoltatori il mare in burrasca, i marinai, le navi. Comunicò loro il suo potere di visione ed essi videro attraverso i suoi occhi quello che lui aveva visto. Sceglieva con tocco d'artista nell'infinita massa dei dettagli, disegnando quadri di vita che splendevano e ardevano di luce e di colore, imprimendovi il movimento con tale forza che i suoi ascoltatori erano trascinati in alto sulle onde della sua grezza e eloquenza, del suo entusiasmo e del suo potere. A tratti li turbava con la crudezza della sua narrazione e con i termini che usava, ma alle calcagna della violenza c'era sempre la bellezza e la tragedia era alleggerita dall'ironia, dalla sua interpretazione delle strane giravolte e contorsioni della mente dei marinai. Mentre lui parlava, la ragazza lo fissava stupefatta, riscaldata da quel fuoco. Si chiedeva se fino a quel momento non avesse sempre avuto freddo. Voleva appoggiarsi a quell'uomo pieno di calore e di fiamme come un vulcano, che ruotava forza, robustezza e salute. Sentiva che doveva appoggiarsi a lui e riuscì a trattenersi solo con uno sforzo. Ma provava anche l'impulso opposto di allontanarsi da lui. Le ripugnavano quelle mani scorticate. Le ripugnavano quel segno rosso lasciato dal colletto inamidato e quei muscoli gonfi. Era spaventata dalla sua rozzezza. Ogni frase sgrammaticata suonava come un insulto alle sue orecchie. La volgarità di molti momenti della vita di quell'uomo colpiva come un insulto la sua anima. Ma poi, ancora e di nuovo, si sentiva attratta da lui, finché si convinse che doveva essere malvagio per avere un simile potere su di lei. Principi saldamente radicati da sempre nella sua mente vacillavano mentre le sue convinzioni combattevano contro le passioni e le avventure di Martin. Di fronte a quegli allegri pericoli e a quelle pronte risate, la vita non era più un affare di seri sforzi e rinunce, ma un giocattolo da rivoltare sottosopra, un giocattolo con il quale divertirsi negligentemente e poi, dopo averlo vissuto, gettarlo negligentemente da parte. Avanti, gioca, era il grido che risuonava in lei, appoggiati a lui, se è ciò che vuoi, appoggia le mani su quel collo. Lei avrebbe voluto urlare per l'impudenza di questo pensiero. Cercò di pensare al valore della propria purezza e cultura e pesò tutto ciò che lei era contro ciò che lui non era. Ma fu inutile. Allora si guardò intorno e vide che anche gli altri lo osservavano attenti e rapiti. Ruth si sentì precipitare nella disperazione, ma vide gli occhi di sua madre, pieni di un orrore affascinato, è vero, ma ciò nonostante, orrore. Quell'uomo venuto da un'oscurità estranea, era malvagio. Sua madre lo aveva capito e sua madre aveva ragione. Avrebbe seguito il giudizio di sua madre anche quella volta, come faceva sempre. Ora le fiamme non la scaldavano più e la paura non era più così intensa. Thank you. tardi, al pianoforte, lei suonò per lui e contro di lui, con aggressività, con la confusa intenzione di sottolineare quanto l'abisso che li separava fosse invalicabile. La musica era la mazza che le brandiva con violenza sopra la testa di Martin, ma lui, anche se stordito e ferito, se ne sentiva spronato. La guardò con ammirazione. Nella sua mente, come in quella di Ruth, l'abisso si allargò, ma l'ambizione di riuscire ad attraversarlo cresceva ben più rapidamente di quanto esso si allargasse. Martin Eden aveva una sensibilità troppo intricata e complessa per passare un'intera serata seduto a fissare un abisso, soprattutto se c'era della musica. Ed egli era sensibile alla musica. Per lui era come un liquore forte che eccitava i sentimenti audaci, come una droga che si impossessava della sua immaginazione per sollevarlo nel cielo e oltre le nubi. La musica metteva in fuga ogni bassezza, inondava la sua mente di bellezza, liberava le passioni, donando ali ai loro piedi. Non capiva la musica suonata da Ruth. Era diversa dai pianoforti strimpellati nelle sale da ballo e dalle trombe chiassose delle orchestre che era abituata ad ascoltare. Nei libri, però, aveva trovato accenni a questo tipo di musica. Per questo accettava con cieca fiducia il modo di suonare della sua ospite. Da principio, Martin aspettava con pazienza le battute ritmate delle melodie più semplici e scandite e si meravigliava perché si interrompevano subito. Non appena riusciva ad afferrarne il ritmo, non appena la sua immaginazione si era innalzata in volo su quelle note, la melodia svaniva in una confusione di suoni, per lui privi di significato, mentre la sua immaginazione ricadeva a terra come un peso inerte. Di Martin fu attraversata dal sospetto che Ruth facesse tutto ciò per respingerlo. Percepì lo spirito antagonista di lei e si sforzò di indovinare il messaggio che quelle dita pronunciavano sui tasti del pianoforte. Ma poi Martin scacciò quel pensiero, giudicandolo indegno e impossibile, e si abbandonò ancora di più alla musica. Si ritrovò così nella sua antica e deliziosa condizione. I suoi piedi non erano più d'argilla, la sua carne era diventata spirito, mentre la sua mente era invasa dallo scintillio della nobiltà e della gloria. Ma poi la scena che si svolgeva davanti ai suoi occhi svanì e si ritrovò lontano, mentre ondeggiava al di sopra di un mondo che gli era molto caro. Il noto e l'ignoto si mescolarono nel sogno che gli riempì gli occhi. Entrò in porti sconosciuti, di terre inondate dal sole, attraversò i mercati di genti selvagge che nessun uomo aveva mai visto. Sentiva nelle narici il profumo di isole ricche di spezie, così come l'aveva sentito durante certe notti sul mare, calde e prive di vento, o quando navigava lungo le rotte sudorientali attraverso le interminabili giornate dei tropici. Atolli di corallo con un ciuffo di palme affondavano a poppa nel mare turchese, mentre altri atolli di corallo con il loro ciuffo di palme sorgevano a prua dal mare turchese. Rapide, come pensieri, le immagini apparivano e svanivano. Per un attimo galoppava su un puledro selvaggio attraverso i colori fatati, irreali del deserto. L'attimo dopo guardava il bianco sepolcro della Valle della Morte attraverso la luccicante cappa del calore. Oppure navigava su un gelido oceano dove si innalzavano enormi isole di ghiaccio che scintillavano nel sole. Poi si ritrovò sdraiato su una spiaggia di corallo dove le palme da cocco crescevano fino al mare, là dove la risacca si infrangeva dolcemente. Il relitto di un antico naufragio bruciava tra le fiamme bluastre, e in quella luce ballavano le danzatrici di hula hula, rispondendo ai selvaggi richiami d'amore degli uomini, che cantavano accompagnati dal tintinnio dell'ukulele e dal rimbombo dei tamburi. Era una sensuale notte dei tropici, sullo sfondo Il profilo di un vulcano si stagliava contro le stelle. In alto navigava una pallida luna crescente e la croce del sud bruciava bassa nel cielo. Gloves hold you in, accessorize corners of sin and potential crimes. The cold scolds your chin, draws some salt from an eye. But even the winds can't get much of a ride. How long will it take you to wanna go home? How long will it take you to learn there is none? You were a sister, a daughter, just what was your role? In a family now scorned, with stitches and holes, stitches and holes, stitches and holes. Martin Eden era un'arpa. Le corde erano la vita che aveva conosciuto, quella vita dalla quale nasceva la sua consapevolezza, mentre le ondate della musica erano un vento che si riversava sulle corde, facendole vibrare di ricordi e sogni. Non era solo una sensazione, perché aveva forma, colore, luce. Qualsiasi cosa la sua immaginazione osasse evocare si trasformava in un modo sublime e magico in un oggetto concreto. Passato, presente e futuro si mescolavano mentre lui fluttuava attraverso quel mondo ampio e caldo, attraverso grandi avventure e nobili gesta compiute per lei, sì, con lei, conquistandola, abbracciandola e portandola con sé in volo attraverso il regno della sua mente. E lei, lanciandogli un'occhiata sopra la spalla, colse qualcosa di quei pensieri nella sua espressione. Era trasfigurato, i suoi occhi erano diventati grandi, scintillanti, e sbirciavano oltre il velo dei suoni per contemplare il palpito e il battito della vita e i giganteschi fantasmi dello spirito. Ne fu colpita. Il rozzo, goffo villano era scomparso, gli abiti tagliati male, le mani segnate, la faccia bruciata dal sole c'erano ancora, ma ora sembravano essersi trasformati nelle sbarre di una prigione attraverso le quali lei vide affacciarsi un'anima nobile, anche se incapace di esprimersi, istupidita dalla debolezza di quelle labbra che non le consentivano di esprimersi. E uscì a vedere quell'anima solo per un breve attimo, poi vide riapparire il villano e allora rise della sua strana fantasia. Ma l'impressione prodotta in quella rapida visione persistette, e quando fu il momento per Martin di congedarsi e di lanciarsi in una goffa ritirata, lei gli prestò il libro di Swinburne e un altro di Browning, autore che stava studiando in uno dei suoi corsi di inglese. Sembrava così giovane mentre se ne stava lì tutto rosso a balbettare qualche parola di ringraziamento, che un'ondata di pena, di materna sollecitudine, sgorgò in lei. Non ricordò più il villano nell'anima prigioniera e neppure l'uomo che l'aveva fissata con tutta la sua virilità, lusingandola e spaventandola. Vide solo un ragazzo che le stava stringendo la mano, con una mano callosa e ruvida come una grattugia, un ragazzo che le stava faticosamente dicendo: «Mai stato meglio in vita mia. Vede, non sono abituato a cose...» Lui si guardò intorno sconsolato. «A persone e a case come questa è tutto nuovo per me. Mi piace. Spero che verrà ancora a trovarci», disse lei, mentre lui stava salutando i suoi fratelli. Martin si mise il berretto in testa, rollò disperatamente attraverso la porta e se ne andò. «Bene, cosa ne pensate?» chiese Arthur. «È un soggetto molto interessante, una ventata di aria fresca», rispose lei. «Quanti anni ha?» «Ah, 20, quasi 21. E gliel'ho chiesto questo pomeriggio. Non pensavo che fosse così giovane». «E io ho 3 anni più di lui», pensò Ruth, mentre dava ai suoi fratelli il bacio della buonanotte. Mentre scendeva gli scalini, Martin Eden infilò una mano in tasca e ne estrasse un piccolo foglio marrone di carta di riso e un po' di tabacco messicano che arrotolò con abilità per farsi una sigaretta. Aspirò profondamente nei polmoni la prima boccata di fumo e poi espirò a lungo, lentamente. «Per Dio!» disse ad alta voce, con un tono di rispetto e meraviglia. «Per Dio!» ripeté. «E per Dio!» mormorò ancora una volta. Poi portò le mani al colletto, lo strappò dalla camicia e se lo infilò in tasca. Cadeva una pioggerella fredda, ma si tolse lo stesso il berretto e si slacciò la giacca, camminando con scioltezza e splendida indifferenza. Era solo vagamente conscio della pioggia. Era in estasi, riviveva in sogno ciò che aveva appena vissuto. Alla fine aveva incontrato la donna. La donna alla quale non aveva pensato spesso, perché non era nella sua natura pensare molto alle donne, ma che aveva sempre saputo, sebbene confusamente, che prima o poi avrebbe incontrato. Era stato seduto vicino a lei a tavola, aveva sentito la mano di lei nella sua, aveva guardato nei suoi occhi e vi aveva scorto uno spirito splendido, ma non più splendido degli occhi attraverso i quali brillava, o del corpo che gli dava espressione e forma. Non pensava al corpo di lei come a un corpo. E questa era un'esperienza nuova per lui. Fino ad allora nessuna delle donne che aveva conosciuto era stata altro per lui. Ma in qualche modo il corpo di lei era diverso. Non lo vedeva come un corpo soggetto alle malattie, fragile come tutti i corpi. Non era solamente l'abito del suo spirito, ne era una emanazione, la cristallizzazione delicata e pura della sua essenza divina. La sensazione del divino lo colpì, lo fece precipitare dai sogni a pensieri più sobri. Nessuna parola, nessuna traccia, nessun accenno al divino lo aveva mai toccato prima di allora. Non vi aveva mai creduto. Non era mai stato religioso e si era sempre fatto gioco dei sacerdoti e dei loro discorsi sull'immortalità dell'anima. Non c'era un'altra vita, aveva sempre sostenuto. La vita era qui e ora. E poi un'oscurità senza fine. Ma negli occhi di lei aveva davvero visto un'anima. Un'anima immortale che non avrebbe mai conosciuto la morte. Nessuno degli uomini e delle donne che aveva incontrato gli aveva trasmesso il messaggio dell'immortalità. Ma lei vi era riuscita. Glielo aveva sussurrato il primo momento in cui l'aveva guardato. Mentre camminava, Martin vedeva splendere davanti ai suoi occhi la faccia di Ruth, pallida e seria, dolce e sensibile, che gli sorrideva con compassione e tenerezza, come solo uno spirito poteva fare, pura di una purezza che non aveva mai pensato potesse esistere. La sua purezza lo colpì come un pugno, lo fece sussultare. Aveva conosciuto il bene, il male, ma non aveva mai pensato alla purezza come a un attributo dell'esistenza. E adesso in lei lui comprese che la purezza era la vetta della bontà e della pulizia, e che bontà e pulizia insieme costituivano la vita eterna. Immediatamente l'ambizione spinse Martin a cercare di impossessarsi della vita eterna. Non era nemmeno degno di portarle dell'acqua, questo lui lo sapeva. Solo un miracolo e un'incredibile fortuna gli avevano permesso di vederla quella sera e di stare con lei e di parlarle. Era stato per caso, non per merito suo, anzi lui non meritava una simile fortuna. Era in uno stato d'animo essenzialmente religioso, era umile e mite, offeso e ferito, ed è in questo stato mentale che i peccatori si avvicinano alla penitenza. Martin era colpevole perché aveva peccato, ma come gli umili e i miti durante la penitenza intravedono splendide immagini della loro futura esistenza divina, così lui intravide immagini di quello che avrebbe raggiunto possedendo Ruth, ma possedendola in un modo vago e indefinito, completamente diverso da ciò che aveva conosciuto fino ad allora. L'ambizione si sollevò su folli ali e lui si vide scalare vette insieme a Ruth, dividendo con lei i suoi pensieri, gioendo con lei di cose belle e nobili. Sognava di possedere un'anima, sognava un'unione purificata da ogni materialità, una libera fratellanza dello spirito che non riusciva a comprendere in un'idea definita. Ma non ci pensava, cioè non pensava affatto. Le sensazioni avevano usurpato il posto della ragione e Martin fremeva e palpitava a causa di emozioni che non aveva mai conosciuto prima, piacevolmente alla deriva in un mare di sensibilità dove anche i sentimenti erano esaltati e spirituali, trasportati oltre le vette dell'esistenza. Camminava barcollando come un ubriaco, mormorando con ardore, per Dio, per Dio, per Dio. Un poliziotto fermo ad un angolo lo guardò sospettoso e poi, notando il suo passo da marinaio, gli chiese: «Dove te la sei presa?» Martin Eden tornò sulla terra. Possedeva un organismo fluido capace di adattarsi rapidamente, di aderire come l'acqua a ogni rientranza e irregolarità. Alla voce del poliziotto, Martin ritornò subito in sé, perfettamente padrone della situazione. «Sono proprio bevuto», gli rispose ridendo. «Non mi sono neanche accorto che parlavo forte». «Tra poco ti metterai a cantare», fu la diagnosi del poliziotto. «Oh, no, non lo farò. Dammi da accendere e me ne andrò a casa con il primo tram». Si accese la sigaretta, augurò la buonanotte al poliziotto e se ne andò. «Beh, non è una cosa da ridere», esclamò sottovoce. «Quello sbirro pensava che sono ubriaco». Sorrise a se stesso e poi rifletté. «Beh, forse lo sono, ma non pensavo che la faccia di una donna poteva ubriacare». Martin saltò su un tram di Telegraph Avenue che andava a Berkeley. Era pieno di giovani e ragazzi che cantavano, urlando di tanto in tanto slogan goliardici. Li osservò con curiosità. Erano studenti universitari, frequentavano la stessa università di Ruth, appartenevano alla sua classe sociale, potevano conoscerla se volevano, potevano vederla ogni giorno. Si chiese come mai non lo volessero, come mai fossero andati a divertirsi invece di passare la serata con lei, invece di parlare con lei, seduti intorno a lei in un cerchio adorante e ammirato. I suoi pensieri continuarono a divagare. Notò un ragazzo con gli occhi sottili e le labbra cascanti. «Quel tipo è un vizioso», decise. «Su una nave sarebbe stato un vigliacco, un piagnone, una spia. Io, Martin Eden, sono un uomo migliore di quel tipo». E questo pensiero lo sollevò. Gli sembrò che lo avvicinasse a lei. Poi si confrontò agli studenti, divenendo consapevole del meccanismo muscolare del suo corpo, sicuro di essere fisicamente superiore a loro. Ma le teste di quei giovani erano piene di nozioni che permettevano loro di parlare il linguaggio di Ruth, e quel pensiero lo depresse. E allora, a cosa serve un cervello? Si domandò con passione. Qualsiasi cosa avessero fatto quei ragazzi, la poteva fare anche lui. Avevano studiato la vita sui libri, mentre lui era stato occupato a viverla, la vita. Il suo cervello era altrettanto pieno di conoscenze del loro, anche se si trattava di un tipo diverso di conoscenze. Quanti di loro avrebbero saputo annodare una cima, ottenere un timone o stare di vedetta? La sua vita si dispiegò davanti ai suoi occhi in una serie di immagini, di pericoli, di sfide e di privazioni e di fatiche. Si ricordò delle difficoltà e dei fallimenti che aveva incontrato nel corso degli studi. Ad ogni modo, nulla era andato perso. Più avanti, quei giovani avrebbero dovuto iniziare a vivere la vita e anche loro sarebbero stati messi a dura prova, come era stato per lui. Molto bene. Mentre loro erano così occupati, Lui avrebbe potuto imparare dai libri l'altra faccia della vita. Mentre il tram attraversava la zona di case sparse che separa Oakland da Berkeley, Martin cercava con gli occhi il familiare edificio a due piani, sulla facciata del quale correva l'orgogliosa scritta «Magazzini Higginbotham». Dopo essere sceso all'angolo, fissò l'insegna per un attimo. Quella scritta possedeva per lui un messaggio che andava al di là delle parole. Gli sembrava che quelle lettere emanassero meschinità, egoismo e gritti imbrogli. Bernard Higginbotham aveva sposato sua sorella e Martin lo conosceva bene. Fece girare più volte la chiave nella serratura e poi entrò. Salì le scale fino al secondo piano, dove viveva suo cognato, mentre la drogheria era al piano inferiore. Nell'aria c'era odore di verdure muffite. Mentre avanzava a tentoni nell'ingresso, inciampò in un carrettino, dimenticato lì da uno dei suoi numerosi nipoti, e andò a sbattere rumorosamente contro una porta. E lo strozzino, troppo tirchio, pensò, per bruciare 2 centesimi di gas e salvare il collo dei suoi inquilini. Martin annaspò alla ricerca della maniglia ed entrò in una stanza illuminata dove erano seduti sua sorella e Bernard Higginbotham. Lei stava rattoppando un paio di pantaloni. Lui, invece, aveva distribuito il suo corpo magro su 2 sedie. I piedi infilati in un paio di ciabatte consunte pendevano oltre il bordo della seconda sedia. Alzò lo sguardo dal giornale che stava leggendo, mostrando un paio di occhi scuri, falsi e taglienti. Ogni volta che lo guardava, Martin Eden provava un senso di repulsione. Non riusciva a immaginare che cosa sua sorella avesse mai potuto vedere in quell'uomo. A lui faceva lo stesso effetto degli insetti e avrebbe voluto schiacciarlo sotto i piedi. Un giorno o l'altro gli staccherò la testa, era il pensiero con il quale spesso si consolava di dover sopportare l'esistenza di quell'uomo. Gli occhi subdoli e crudeli lo fissavano con rimprovero. «Avanti!» lo invitò Martin. «E sputa fuori!» «Ho fatto dipingere quella porta solo la scorsa settimana», disse Higginbotham, usando un tono per metà lamentevole e per metà prepotente. «Sai quali sono le tariffe sindacali? Dovresti stare più attento». Martin stava per rispondere, ma fu colpito dall'inutilità del farlo. Guardando oltre la mostruosa bassezza di quell'anima, vide una cromografia appesa al muro e ne fu sorpreso. Gli era sempre piaciuta, ma ora gli sembrava di vederla per la prima volta. Era dozzinale. Ecco cos'era. E tutto in quella casa era dozzinale. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it